Cagliari! Ecco, buonasera! Buonasera! E allora? Vabbè, senti avanti. Guardando la TV e mi sono appettendo con un computer. Due cose in una sto facendo. E andate così. Va bene così, invece io stasera ero al funerale del bombolaio. Di chi? Del bombolaio, Mario Pala. Ah, a proposito, l'ho sentito oggi. Andateci sito, io non potevo, non mi sento bene, so, ecco perché non c'è. Se no se ne è andato anch'io. Sì, non vedi niente, vera. C'era parecchia gente. Beh, cazzo, è conosciuto parecchio qua, è conosciuto parecchio. Per cui, mi dispiace, è da poco che l'ho visto io. Sono 15 o 20 giorni fa che l'ho visto, mi ha salutato e però è sempre andato. L'avevano operato e per cui evidentemente la questione non era tanto buona, capito? Infatti. Ma Marino me l'ha detto avanti ieri. Domenica me l'ha detto che stava male e quindi sono da aspettare un po'. Stiamo aspettando, sì. Quella roba non perdona, non perdona la roba. Avevano operato, però la cosa non era buona, era maligno, capito? E la cosa più andava peggio, perché l'hanno operato e è andato peggio la questione, capito? Ecco com'è. Purtroppo, vedi cosa succede? Ma c'è caduto tre ziti. E purtroppo sì, è una cosa del genere. E non fa, non perdona quello lì. Ha finito di soffrire, poverino, cazzo. Era parecchio che non lavorava, era sempre una cosa all'altra, per cui finché non ci ha messo la pelle. Purtroppo quando c'è quella malattia non si può tornare indietro. Dice che era martedì l'avevano operato. L'hanno richiuso tutto quanto, tempo di un giorno, e poi se l'hanno portata a casa, ed era in condizioni brutte. Perché non era benigno, ho capito, ecco il fatto che è. Perché, sicché è cominciato ad andare più male che bene, ecco il fatto che è. Però hanno tentato, però non c'era niente da fare, ecco lì. Aspettarsi di tutto, ecco il fatto che ecco cosa ci vuoi fare, la vita purtroppo è così, un po' bene, un po' male, e cosa vuoi fare qua? Cosa vuoi fare? Noi tiriamo avanti piano piano, un giorno alla volta. Altrimenti non è che puoi farci niente, no? Purtroppo si bisogna tirare avanti la bella bici, finché va, quando lo va, ecco, vuol dire che è arrivata l'ora sua, ma chi già c'era? Ho trovato la moglie, mi ha detto che dice che era lì, ci sono pensi, ma io non l'ho trovato, dice che era lì. Magari che ha trovato degli amici, si è spostato, ma da una cosa all'altra. Senz'altro c'era molta gente, io mi dispiace, purtroppo non potevo andarci, ecco. Così che se non sarei andato, ma è andato mio figlio, c'era anche mio figlio. Poi c'era anche mia figlia, perché la sorella era amica di mia figlia, capito? Per cui, lui abbiamo fatto anche delle spuntinate insieme varie volte, capito? Per cui ci conoscevamo benissimo, ecco, poi io mi servivo anche da lui. Infatti, ma adesso sistema, piano piano andiamo ad avanti. Purtroppo bisogna andare lì, bisogna andare sempre avanti, sempre avanti, ma indietro. Chi va indietro vuol dire perduto tutto, la vita è così. Non ci pensiamo a quelle cose. Tiriamo avanti alla bella miglia, finché fa. Come che dice quella canzone, finché la marca va, andiamo, quando va, pazienza, e tira a capa. Quando non andiamo, andiamo. Quando si chiama Isu, andiamo bene. Allora, l'importante è che uno faccia la morte buona, non che sia anni e anni soffrendo come ce ne sono, anni e anni, ma deve essere il corpo e poi un corpo è a terra, poi almeno soffre lui, non soffre nemmeno i genitori. Infatti è così, bisogna fare da Maria, non soffri però, invece, quando soffri, intendi, vabbè, pensiamo altro che meglio, va, pensiamo altro. Attenzione signor Battisio! Chissà cosa combinendo! Chissà cosa combinendo il Battisio, davvero, se mi sembra di essere zappalato a quest'ora, o è ben andando? Ma con Graziano si è inteso, beh? Ma Graziano se lo sento senti il PMR, questo qua non lo accende perché è coperto, se lo li fa prendere il raffreddore se lo scopre adesso, capito? Copre bene con la coperta e dentro la madre ho chiuso pure a chiave. Io se pigliavo il raffreddore. Se si guarda uno va giù l'altro, cazzo in affutti. Infatti, se ne frega. Si va avanti sempre, si va avanti. Come le piace che vada uno, ma tengo la ragione. Anche Luca, qui c'è la sentura lì. Ma qui il sacro è. Accendene al pendigliato, a spendere i soldi di sacro buio. Quando ci sono, l'importante è che ci siano da spendere il to. È brutto quando non ce ne sono a spendere, ecco il fatto com'è. Prova a chiamare la Graziano in PMR se c'è. Aspetta a vedere. Ma Ezio lo filano, magari che si condizione, non credo di sia andato a ruinare. Oh, che è andato no. Non c'è andato, dopo si deve arrigare la bombola presso, si deve arrigare, quindi. Poi, meglio che se ne sia andato a casa, se no era anche a Castro Lugo. Ma già entra, in PMR già entra dopo, Sono le 6 meno 4, la buia già chiama. È 7 in 4, è 7 in 4 in PMR. Meglio così. Come già sono andato a dalla Lido a vedere se c'era quella lampada che mi ha detto Bacchisio. È vera. E l'ho comprata anche, quella a LED con la lente. Le olive hai comprato? No, quella lampada a LED con la lente dentro. E dove l'hai vista? La Lido, quello di Predaniella. Da Lido, 20 euro, 30 euro, da, si può dire. Non l'ho vista io, Buona, L'ho provata, va benissimo. Proprio fa anche luce fa, e non serve a me, non serviva a me, serve a mia figlia quando viene a gennaio, serve a lei, serve. Io sto cercando sempre quella motosega elettrica, ma ancora non mi hanno messo quella che interessa pure a Bacchiglio. Ogni tanto ci passo, guardo, mi faccio un giro, ma non. Era a c'era l'offerta, una cassetta di chiavi, c'erano. Ma non mi interessa, le chiavi già ne ho. Tante cose ogni tanto ci sono, dai. Avevo preso, quando era poco, quella, la mola avevo preso. La mola che c'era anche la cinghia per litigare pure c'è, capito? C'è la ruota per affilare e la cinghia per litigare. Anche quella mola ho preso. Sì, no, io se mi pongo a pigliare un medaglio, non so da voi più in mira. Più che altro ho preso quella lampada lì stamattina perché serviva a mia figlia. Se no mi ha cubigliato una via, che tanto io non ho. Ce l'ho io la lente di ingrandimento con i cosi da attaccare il circuito per saldare. Quello lì ce l'ho io, l'avevo preso a inizio di quest'anno. Io ho quella per le lenti, ce ne sono quattro in quel pezzo che ho io. La puoi cambiare in tante maniere, la puoi cambiare, la puoi mettere la il retro, capito? Ma avevo preso anche la maschera con tanti tipi di lenti, anche quello avevo, l'ho regalata, mi sembra che l'abbia regalata a cosa, a Luca l'avevo regalata quello lì. Che tanto non ne usavo, era sempre tra scatole buttata, era regalata quella lì. E quella è molto utile a me. Se quando si sta saldando, non so quanto è buono, quanto vedi bene. Poi ci sono tutte le cose che adatto agli occhi tuoi, capito? No, io stamattina ho visto anche dei trapani a Vittatore. L'ho visto, e poi c'è anche altra cosa, cioè, che non me ne ha fatti a nulla. Altro più che altro per la lampada, boh. Il trapano è buono, mi ha preso Luca, ragazzi, l'abbiamo provato, ti dico che vanno bene, e sono forti anche. Io ce l'ho, non è di quella marca, l'avevo preso in città mercato, ma è buona, e c'ho anche due batterie, una di scorta sulla valigetta, c'è. C'è un bel danno, ce l'ho. Allora, avevo preso il trappo, la batteria, più come si chiama, il gango fa da molto picco, quello lì, che l'abbiamo usato con Luca, e ti dico che lavorano bene. Anche quelli mi sono preso, capito? Poi avevo preso la circolare, quella per tagliare con 45 gradi, quella lì, quell'altra che si corca, due ne ho di quelle lì, capito? Una c'ha anche il piano, capito? L'altra invece la puoi girare come ti pare, ti piace, anche quelli c'ho. Il trapano l'avevo preso anch'io, l'avevo preso, il saldatore l'avevo preso, e adesso già ce n'ho. Ne pongo un'officina, gira. Stavo aspettando che mettessero il trappo, la batteria ce l'ho. Stavo aspettando sempre la moletta batteria. Non ne ho mai visto, mai, ragazzi. Più di due anni che non riuscivo a trovarla. Però l'avevo vista e non l'avevo presa. Allora ho preso e l'ho ordinata da eBay. Cazzo, che di marca, ti dico, quella mattina molesta è un mommo, cazzo, è bella, cazzo, sa che è una meraviglia, anche quella c'ho un saccaccio attrezzature, no, può capitare qualche volta che la usi, capito? Infatti quelle attrezzature io da mia figlia l'estate scorsa, due anni fa, che stavamo lavorando con Luca, abbiamo fatto il saccaccio da fuori con queste attrezzature, capito? Tipo mezz'ora è già servita l'attrezzatura. Sembra così, ma al primo o poi ti capita che ti serve, capito? Infatti, prima o poi ci serve, purtroppo, bisogna farlo uscire. E allora, dopo l'ho preso. la bobina, cazzo, e qua, quella del prolungo, cazzo, 1,50 metri, e l'altro di 25 metri, anche quello, più in uno c'era anche un faretto in omaggio, capito? E anche quelli in campagna, quelle prolunghe mi servono, capito? Perché per portare io uso l'attrezzatura tutta elettrica, capito? Se ho la motosega quella lunga da 4 metri, però è troppo pesante, cazzo, troppo. Infatti io appena che vedo quella da 2,50 metri, prendo quella che è più maneggevole e riesco a tenerla, ma quell'altro no. O questi dolori che ho a coso, ai bracci, non ce la faccio. Invece una piccola magari è diversa, capito? Purtroppo, la farluccia bisogna fare. Vabbè, la città è buona, quando rimane, quando vede che lo vede nel volantino, allora può dire che gli ha bisogno. Ma ogni tanto lo vado anche in televisione, però ma ogni tanto pure ci passo, sia quello della Torre, c'è quello di qua, di fronte alla centrale Lazio, anche quello va. Passando, certe volte entriamo magari a prendere l'acqua o per prendere qualche altra cosa, mi faccio il giro a vedere se la vedo, ma non la vedo. No, se c'è qualche cosa che mi interessa già la prendo, capito? Sì, purtroppo sì, bisogna fare così, bisogna fare. Mia città è buona. Vabbè, è che hanno già di Napoli. E ci avessi per Bacchisio, attenzione signor Bacchisio, ha detto che non può entrare ancora. A me mi farisce, sta merendando, dottor, piano piano, cazzo, quello sta mangiando le fette biscottate, c'ha il coltello in mano con la marmellata o col burro e sta merendando, sa, cazzo, ogni tanto un bicchierino. E dopo quando c'è il sacchetto pieno entra. Ehi, bella. E allora, io devo fare. Ma stasera me ne sono svegliato alle 4. Me ne sono alzato, me ne sono sceso giù, mi sono fatto una bella passeggiata dietro qua. Un'oretta così. E ho fatto un po' di strada, almeno mi metto in movimento un po' le ruote, ragazzi, perché ci sarà addormentato anche le ruote, ragazzi, per carità, quanto è brutta la vecchiaia, ragazzi. Rovaggio, ragazzi, è morto, per cui non possiamo rinnovarci niente, capito? Vabbè. Andare. L'unica cosa che dobbiamo rinnovare è l'abbonamento di nonni. Per carità, ieri sono andato a fare le altre analisi per devo fare l'analisi per la tiroide, cazzo, ma un altro appuntamento mi sembra il 17 marzo, ti puoi immaginare, ragazzi, anche ieri siamo usciti, ragazzi. La settimana passata, ragazzi, era tutta la settimana andando e tornando, analisi qua, analisi là, visite, per carità. A me io ce l'avevo oggi il medico del diabete, e invece me l'ha spostato a giovedì alle 10:15. Ma ho fatto un certo analisi alte, ma dice adesso vi faccio fare l'analisi della tiroide, non sia che sia anche da questo qua, dice così, che infatti li ho già fatti ieri, adesso devo andare a respirare fra 2 o 3 giorni, ci devo andare, dunque ci devo andare fra, mi sembra, fra 15 o 20 giorni a farli vedere queste analisi, capito? Però l'appuntamento quando riandare per l'altro controllo, capito? No, io quello lì l'ho fatta il 24 ottobre, l'ho fatta quella visita lì. Tutte, mi sta facendo fare tutta, una, però anche l'oculista adesso, sai quando torno a andare, mi fa fare la vista di nuovo all'oculista, sì, che abbiamo sempre questa dottoressa lì a Lina, sempre quella lì ci abbiamo, dottoressa, che è molto brava, la dottoressa Mattona, e per cui dai, tu quando torno a andare mi do l'appuntamento. Il resto è tutto fatto, ecco. Adesso devo passare solo queste analisi che ho fatto durante il ruide e dopo mi dirà quando ritornare a andare per la pista della riapertura, capito? No, io quello dell'oculista devo fare il prossimo anno, devo fare. Infatti adesso glielo dico, me lo faccio mettere a marzo il coso, quando vado da lui sicuramente devo andare a marzo da lui, devo andare, se invece se devo andare più avanti allora me la metto, me la faccio mettere ugualmente. E bisogna essere sempre sotto controllo, a questa età uno, ripeto, è purtroppo così, se vuoi essere tranquillo un pochettino almeno sai cosa sai e non sai, così che è meglio che sia così. Io intanto me ne fa fare una e cazzo, e me ne ha fatto fare niente, cazzo, adesso è tutto, cazzo, mi ha fatto fare la gastroscopia, l'endoscopia, ma capito, ogni tanto me ne fa fare un paio. Quella della gastroscopia l'avevo fatta io 4 anni fa, l'avevo fatta e non c'avevo nulla ed era tutto a posto, era. Anch'io, quello l'ho fatta anch'io, tutte e due le ho fatte io, capito, le ho fatte al policlinico, però l'ho fatta dormito, che non ho sveglio, non l'ho voluto fare. Ho pagato 80 euro, però l'ho fatta a dormito, capito? Perché una volta l'ho fatta a Zella, ma lì a Cozzo, al palazzo, quello che stanno sfasciando adesso, in via di San Pietro. Ma hai visto che c'è un palazzo, quello che ho fatto in cemento a Firenze, che lo stanno sfasciando? Ah, quel palazzo rosso. Io avevo fatta all'ospedale, l'avevo fatta al secondo piano, mi pare, l'avevo fatta lì ed era tutto a posto, vero? Era parecchio, però l'ho fatta io, ripeto, l'ho fatta a Zeglio, ma non ho fatto il giuramento perché guarda, stavo affogando, stavo riuscendo più a respirare, per cui infatti me l'hanno tolta in fretta pure, grazie, sa, mi avevano riservato anche la gola, mi avevano riservato, capito? Così che dopo un altro paio d'anni l'ha fatta fare questa dottoressa, però l'ho fatta al policlinico e l'ho fatta fare con l'anestesia, capito? Non mi sono accorto, tutte e due le ho fatte. Sì, l'ho fatto due dormisse, per cui non mi sono accorto per niente ed era tutta un'altra cosa, capito? Sì, già va bene così. Ogni tanto bisogna farne una, bisogna farne purtroppo. E vabbè. Poi me dice che devo fare forte, tanto non vi bello nulla. Almeno sono più tranquillo, capito? Così vai, che più si fa più malati ne escono fuori e devi sapere com'è, come l'ho letto, ecco, faccio letto. Purtroppo così, Mattia sei giovane ancora tu, cazzo, sei molto giovane ancora, per cui la questione, certe volte anche ce ne sono anche giovani che sono malandati veramente, però per carità, così purtroppo ci sono anche giovani malandati anche. Lo so, purtroppo ce ne parecchi di quella gente così. Quando sono andato veniranno quasi con i nipoti io, che posso fare? Si sono muffiati i ranchi, non si sapeva da cosa si muffiavano i ranchi. Ma poi mi ha dato lo diabete per la via Restelli, per la via. E forse tutto era da chissù. Allora mi ha detto a misurarmi la mattina, pomeriggio e notte. Ora misurarmi la scriverla. Alta, vedere un po' cosa è, se posso, se mi devono fare dare qualche altra cosa oppure no, e per una settimana, e ho visto che qualche volta è alta, qualche volta è più bassa, per cui adesso per tutta la casa, quasi a metà della settimana entrante faccio così, me la misuro, e dopo quando vado gliele porto, e eventualmente se c'è da modificare qualche cosa me la modifica, capito? No, a me io me la sto misurando, ma faccio una volta la mattina, una volta prima di pranzo, una volta prima di cena e dopo pranzo me la misuro. Ma c'ho tutto sui limiti giusto, c'ho. No, a me mi ha detto così, ma se la mia prima di pranzo e dopo due ore dopo pranzo, e se voglio provare, se voglio misurarmi anche la notte prima di pranzo, capito? Così mi ha detto, poi l'importante prima di pranzo e dopo pranzo, capito? Così mi ha detto. Mi venga con un fruscendo al CMR. Ok, un attimo. Sono qua. Attenzione signor Bacchisio! Eccoci qua, Gio Maria. E Bacchisio, ma che non si è sentito? Sono altro da fare in campagna, da punire a mangiare animali. A quest'ora è buio, non ci scende al buio lui, no? Non credono. Guarda, sono le 6:10. Può anche darsi, ma non credo, non credo. Sarà sceso, magari sarà salito. Sarà indaffarato, dai. Sarà indaffarato, ma già entra più tardi. Se no, pazienza. Sei uno impegnato. Sai com'è? Pensa sempre a fare le cose più importanti, che molto importante. Ho detto. Infatti, sarà così, sarà. Vedrai, fra poco entra. Poi quando entra c'ha il bipi, c'ha lui. Non so, sarà per me qualche cosa. Senz'altro. Questa è la radio, come sto? È buona. Qualsiasi radio che metti già sono buone. È limpida come radio. Perfetta, no? Ti lascio la portata se c'è qualche rovio. No, non si sente nulla. È silenziosa. Allora è perfetta, mi devo uscire. E ogni tanto anche questa bisogna accendere, se no. A darli, non li comprare già più nessuno, se no mi dà aveva bisogno di tutto quanto, ma non li comprare già nessuno. Vabbè, sarà tutto occupato, tanto non entra altro nessuno, non può entrare. Fai forza, chiamami con questo telefonino, fanno tutto, fanno tutto, per cui io viraggio e poi non lo gioco tra tenni, no? Ma qualche volta che non si può venire non dovevo anche accostare. Io accostavo prima magari a mia faccia accostavo la parte all'altra, ma la, è che la che ne so che del vivo insomma, no, no, aspetta la macchina, allora si ma dicevo lui che cazzo è tutto altra cosa, va a cucciare a Egi, va a cucciare un gruppo per cui è data da così, forse fa che mi gioco un gruppo, cioè per quello che mi sono ciuffato e poi anche l'età, vai, ormai sono ciuffo, non ho più voglia e forse anche per quello, anche di parlarmi, non è che non abbia voglia, non è, poche niente, capito? E ce l'ha così subito. E ormai anche mi sono messo di gruppo alla radio. Ma già non ho che lungo, io devo che se gazzetta ne mi manca la cosa, se no mi abbaglio sul giornale da un telefonino. Ah, che? Da dire, no? Così a mettere sullo scavo, quello già lo so fare, ma a mandare messaggi non mi sono mai messo e non ci riesco, capito? Per cui lo, ma mi fa bene così, capito? Io qualcuno già lo mando di messaggio, però a Fio Buru so che non me ne affrutti nulla. Dai, faccio già. Vedere, ma non ci riesco, no, così che non mi so più provare, non mi so più messo, per cui non sono riuscito mai a mandarli, capito? Allora, mi sa bene così, capito? Sì, dillo a me. Dillo a me, io qualcuno già lo mando, non chiamare, allora mi mando il messaggio e mi rispondono. Ehi, andate. Quindi no, non mi preoccupeggio tanto, quindi. Magari me le mandano loro, già. Io mi sono i figli, me le mandano sempre a leggere, già li leggo. Però a scrivere che non riesco. Non mi sento di su calco. Giovanni, che signore, è una cosa facilissima. È una cosa facilissima, che ho imparato subito io. Poi solo che non sono svelto come gli altri. Quindi piano piano già lo mando io il messaggio. Ma a me mi sta bene così, no? Sì, pure un telefonino che vuoi ammazzarmi un capo, no? Sarà il nostro. Poi, certo, per carità, a me mi dice, ma se Vandrone pure a telefonare, che mi manda sempre il telefonino dei migliori, certo, e devo telefonare mai. Ma quando ce ne dobbiamo mettere noi a trasporto, so che pure a te qualche volta, cioè, e io, ecco, se di voi, io non ho giocato. E infatti, gli affarussi, se no, come arrangia, se mi vuoi intendere, mi intendi. Qualche volta già leggiamo io. Andove, mi fate su madame, ma ci ha mandato mio cognato, cazzo, già ci facciamo sentire, sì. Anche tu ti fai intendere, che dico io. Vabbè, già ci siamo visti da poco, ma cazzo. Anche io qualche volta li chiamo, no? Non è che non li chiamo qualche volta, ma non lo faccio spesso come lo fanno loro, capito? Loro magari se stanno due giorni, a terzo giorno mi telefonano, capito? Una sono tutti, capito? Per cui, però ripeto, io sono un padrone, sono un padrone, e cosa vuoi fatto? Già riesco a capirmi, capito? Infatti, io fa così bisogna fare. Se andare, pazienza. Cazzo, ho solo longoso. Fate il mio cognato, c'ho manzano. Atta. Già vi fate sentire, sì, anche te fai intendere tu pure. Andate. Quindi no, mi devo pulire d'accordo con lei, ma non ti viene a dare. Bellissimo. Magari la mamma non a dare già. sa che ce le faccia già ne fossi un muro. Parte che non telefono giù mai. Ripeto, il comandone ha telefonato. Tu qualche cosa che mi interessa utilizzata, allora già ha telefonato di no. Facciamo tutti e due il telefonino per cui se ti volete tre prendi già un telefonino va. Andiamo via così. Aspetta che facciamo una chiamata a Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio! Marco Marino, me graziato, me Luca, oh. Tutti il targo sono, guarda, sono in giro. Graziano lo sappiamo, Graziano con un telefonino a vedere chi si fotografia. Quello senz'altro è col telefonino. Sì, vabbè. Marino sicuramente sarà in casa della cognata, sarà. E che ci verrà buffetti di carina? Ah, boh. Ma ne ha dato di buona buffa? Se no è Luca? Forse è Luca, fa le chiamate. Che cosa ti dico, non mi rispondi. Andate. Vuol dire che non una gara che ci sto, faccio un paese. Non lo sa cosa si perde. Cioè rientra o entra, se no si rimane che allo due. A mai detto ciò che ho lasciato a me. Può essere anche Marino mi. Può essere anche Marino, ma no, Marino dovrebbe risposta subito. Infatti, no, ma Marino deve essere dalla cognata, deve essere. Forse dal cimitero andava insieme alla cognata. Anche lui impegnato, si è impegnato. E si è più zaffarato anche lui, purtroppo è così. Da fare per cui io ripeto ogni tanto me ne scendo in magazzino, no, ma cosa ce la fare niente, però sto qui già pulendo pure io, poi da pulire prima la pongo la pace, poi le adoro la pongo la ciabba e sto così, io pure mi fosse in diretto se non mi prendo pure da voi mi nascio. Infatti da voi mi tocca fare la torre, fare il gabinetto, oppure la pelle, eccetera. E poi c'è un movimento di tanto. Dillo a me, dillo a me, mi sono riuscito a Gorugani, mi sono durato a mezzo di mesi. Pensa un po' con gli agiro. In Samazzaro c'era gente per cui da una cosa all'altra, anche ieri sera, varia gente per cui fino a tardi siamo stati in magazzino, poi da posto cosa e a Reggioreggio, cos'è l'altra, era stamattina lo stesso, fino a verso le 11, dalle 9 qualcosa, per il magazzino. E così via, poi mi chiedo di comprare la pulizia sera, prima mi ha fatto meglio il riposetto, alle 4 mi sono alzato, la pulizia con la giostra, mi ha fatto un'oretta di giri, appesi, allo piano, passeggeri, lemme, pallanche, capito, bisogna muovere, se no da buio. Allora per esempio, quando mi ripeso da pulizzato, mi fate rimanere tutti i cusci, capito? Aspetta, quando forse il movimento spesso mi è di manco un dolore, capito? Infatti, bisogna stare sempre in movimento, ma se in forma un po' garito, non avevo dolore né nulla. Bisogna abbigliare in filosofia la giornata, giorno per giorno. Prima mi ha abbigliato a bella insomma. Ashi, come via di Ashi, alzava in Villa Merlana, chiamato in Villa Merlana, allora è stato aperto, perché molti ore e ore attaccato in San Merlana, mattina e sera, però dopo mi sono qui a casa, che l'ha toccato, però ogni tanto passa, aveva l'attento un po' di passi, io mangiano però, adesso qui a due chiese che non la tocco. Si può immaginare, perché il movimento non è legato come se cammina a piedi, capito? È diverso il movimento, già fa di vero ma c'è una pedana, però il movimento a piedi così su strada è tutto, è miglior movimento che su, capito? Infatti, io e me, quando c'è di camminare c'è cammino con ello, cammino. Mi manca a camminare con Rugani, sto mangiando dai nocchi, mi ha fatto un chilometro, finta un chilometro e poi mi sono comparato. Vedo un po', bisogna camminare, a me me l'hai detto, lei deve camminare, e poi va detto, e a mangiare non mangi il pasta, non mangi il riso, e non mangi pane. Cazzo, ma come ti fai tu a non mangiare un pane? Cazzo, se io addirittura mangio la frutta con tutta la frutta con un pane, cazzo. Non riesci a mangiare senza pane, sto. Purtroppo io ci sono riuscito. Ogni tanto me lo mangio un pezzo, però a posto del pane molte volte il pomeriggio mi mangio una mela. Oppure un pacchetto di cracker a posto del pane. Io ogni tanto là per esempio lo mangiano, io la colazione fosse uscita, mi vino mezza tazza di latte mi pieno, appena il caffè mi lo macchio il latte, e se mi fondo un coso, una fetta di scimmare, come se cavolo si chiama, una fetta piccolina la fetta, no? Però mi basta a me, mi lo bando, mi rifondo e mi lo mangio, e sono veramente la una così, e lo caffè da poi piglio lo mangiamo, e basta, ma sono piglioaccio questo, alle fette biscottate, mi mangio una fetta biscottate con mezza tazza di latte. No, io inizio la mattina con il tè e quattro fette biscottate, poi verso le 10:30, 11, mi mangio un pacchetto di greche, mi mangio, e poi a pranzo, poi la sera ho un pacchetto di greche oppure una mela, e poi la notte a cenare, leggero. Io la sera non mangio niente, io. Sera no, a merenda non ne posso mai, nulla, oggi ho mangiato polenta, abbiamo fatto la polenta, mi sono mangiato un piatto di polenta, e poi e dopo ho mangiato un cacco mela, e boh, e basta, adesso sarò, latte non lo so, potrei dargli una mozzarella e basta, capito? Non un attimo a cucare, ma questo dobbiamo ancora la mesurì, è rimasta la poletta, ma io dopo il candito non le mangio poletta, capito? E lo mangio solo quando è casa, caso la fosse, allora me la mangio, ma dopo il candito come si fa in tutti il caso è che è più buona, sì, a me non mi piace. Infatti, diremmo da nati piano piano, Gian Mario, ma è così la buccia. Dai luce, la va come fa, non deve mangiare questo, non deve mangiare quest'altro, quando io questo è stato diabetico, mi ha mandato alla direttora, caro, mi ha mandato, c'è un altro che va lì, aspetta che va, va via, tu i voli critici veri, a te gira lì non puoi mangiare nulla, nulla, cazzo, ma che c'è, io sono male, cazzo, e non si mette plastica tu sì. Cazzo, mi sento sempre male, cazzo. Così, due volte mi sono cambiato. Se questa volta è tubuta, oggi non fanno più, non mi sono più andato. Mi devo regolare io, e basta, si vuole regolare. Va. Cazzo, mi sento sempre male. Così che hai tu, ma vai, cazzo, già. L'ho preso, e infatti mi ha tumulato tutto e io, dal rispetto, sto mangiando tutto, detto. Tutto, io mangio tutto. Solo magari, mi devo regolare magari invece mangiare mezzo piatto, devi mangiare mezzo piatto, capito? È tutta ivia, la dieta la devi fare tu, capito? Però quando la mangio è biuta, mi dà pieralla, se non è pieno non so chi sa. Ah, io già mi sono curato in... Tanto più di tanto non mangio io, quindi il movimento mi sono convenuto, cammino parecchio, quindi non mi dite nulla a me, già sono a posto come ti gioco, a voglia, a tenere la linea io. Perché io faccio il gioco come un grosso, capito? Non è che sia grasso, è il gioco faccio io. Come si alzo, ecco, poi se c'è il re per mangiare poco questa pancia lì, così e là, cazzo, quando gli ho fatto l'ecografia, là, cosa del guri, no, l'ho detto quel biogramma, no, lì deve mangiare poco, lì non deve mangiare questo, non deve mangiare quest'altro, non deve mangiare quest'altro, e io, sì, agito, sta diverso, cade su fame, mangio qui su, finalmente in maggiorata, chi fa risultare, chi scrive, perché se la fuggi? Sta attenta a dire, non morirà a fumare il drone. Ma che non mi ha visto, non sappia cosa dammi di dieta. C'è che dieta gli do io lì, se c'è magro. Infatti gli ha detto al dottore, ma che dieta gli do io a questo signore qua? Non mi ha visto. Cioè, ma un po' deve scendere, ma che scendere, che sta bene come è. Infatti me l'ha data, ma me l'ha data così, me l'ha fatto. Tu hai rosso là, tu hai insieme figliolo, ci sento magari dopo. Che il chatto è forte, sta venendo, ci deve essere che sono atto lì. Già ti sentiamo tu, ok? Sì, ok, Giomai, già sono qua. E tu hai macchizio. Bacchisio! Assente, ti ho titolo! Ehi, c'è la Bacchisio, buonasera! Buonasera anche a lei, dottore! Beh, Bacchi, c'era Tore chiamato di poco fa, cazzo. E Bacchisio ci sarà merendando adesso, questo. È impegnato, qua domani già si fa sentire, però adesso l'ho chiamato, io me l'ho attentato. E adesso non c'è, boh, prova a chiamarlo tu. Ma io l'ho chiamato poco fa, non è il paciente qua. Ettore non risponde. Ma era qua, io mi sono assentato, ho detto che c'avevo gente. Ho detto mi assento, Ettore, ti rientro dopo. Ho finito adesso e invece non c'è. Se non andate a prendere la 50. Bacchi, allora, andateci al funerale stasera. Io non ci sono potuto andare, non mi sentivo bene, dice che non lo so potuto andare, mi dispiace veramente. Sì, dice che c'era un bel di gente. Infatti, era molto conosciuto per quella. Cioè, ok, un peccato, purtroppo la vita, vedi com'è, nemmeno ce l'aspetti. Era, l'avevo operato da poco pure. Uno per soffrire, soffrire, meglio che sia andata così, va. Certo, ormai era messo male, e quella roba non perdona, purtroppo è così. Vabbè, la vita, cosa ci vuole fare? Siamo dei passaggi, per cui sappiamo già e cerchiamo il teravante, finché la barca va, Adulo va, e cosa dire, non puoi farci niente. Tutto lì. Ok, vediamo un po', Tore, no, non c'è, capito, ma e allora, ma chi? Ma c'è la radio che non mi piace però battire, è un po' confusa, rimane. Prova a avvicinarti a vedere. Guarda adesso, come? Adesso va bene, adesso va benissimo. Oh, morto? L'ho capito, non ho capito, ma... Oh, c'è un saccaccio, quel remme, a me hai quel remme? No, pulito, pulito, qua, è pulito, pulito. Boh, questo, ma aspetta, cambia, a vedere un po', boh. Vedo un po', ecco. Qua un altro passaggio. Lungo, quello lungo passaggio. Adesso anche se tutti bene, dai. Però se non si avvicina, il microfono rimane basso la radio, o poi se la cambio, perché questo è appena acceso, che è freddo, magari la ricezione non è perfetta. Quindi adesso? Adesso sì. Perché se rimani un po' distaccato, invece se ti avvicini e gli tira il microfono ti sento più bene, più forte, capito? Invece quando ti allontani e basta la radio non si capisce. Che è questa trombetta? Adesso la sei tu, adesso è fortissima la radio, è bella chiara pure. Si sente bella amplificata adesso, Se dura, se va sempre così va benissimo. Dura, dura quando si va bene così, questo è l'ultimo arrivato. Ah, e allora, ma non amplificato l'hai messo? Va bene, la radio è fortissima, va bene, poi bella chiara, capito? Perché è sempre amplificata la radio, capito? Cosa mi hai detto? Ah? Cosa hai detto, Bacchi? Un po' il correme, ma è di meno qua, dai. Qua è di meno il correme, mentre sull'altro invece c'era molto correme. Va bene, va benissimo, adesso va bene. Con questo ti sento perfetto, che è una meraviglia adesso, va benissimo, va bene, che va bombo. Vediamo se c'è dove. C'è stato, è andato a prendere la 50, e se no sarebbe stato frequente. Perché l'avevamo una mezz'oretta e più chiacchierando, però dopo è venuta mia figlia, ha dovuto assentarmi, come vedi dopo che sono entrato ho sentito a te. Sai com'è? Ieri sera, ma ieri sera, non l'ho acceso, no, ieri sera non l'ho acceso, non l'ho acceso perché c'era mia, appena che rientro, attore, era qua, ripeto, ci deve essere andato perché io mi sono assentato. Ha visto magari che non c'era nessuno perché ti ha chiamato pure quando mi sono assentato io. Ti ha chiamato e tu non hai risposto. Anche il TMR ti ha chiamato varie volte. Quando eravamo insieme parlato, questo qua e chiamano il TMR a vedere, invece non ha risposto. E io l'ho detto, attore, guarda tu, Bacchisio sta merendando adesso, sta preso le fette biscottate con la marmellata, se la sta mangiando, guarda, finisce, entra, così ho detto. Televisione accesa, sai, no? Perché se senti tu sei fracassato dalla TV. Per quello, perché si sente. L'amplificazione è un bel per cui si se lo porti appresso, E così è Bacchi. Cosa hai combinato oggi in campagna? Forse non si può fare nemmeno niente perché magari sarà troppo molle la terra. E io dovevo tagliare l'erba, ma non la taglio fino a dopo le feste, che ancora non è che sia tanto alta, e per cui la taglio dopo le feste. E mi devo scendere a fare un po' di agrumi. Forse se fa la giornata domani, domani sera, perché la mattina non si può, è tutto bagnata l'erba, per cui non ho, magari la sera asciuga un pochettino, non molto, ma se c'è vento asciuga, se non c'è vento, siccome rimango in una vallata io, e certi punti c'è l'ombra, non asciuga, capito? Buongiorno, sono Bacchi, buonasera. Senta, devo difendere questa gira. Ci ho trovato tua moglie, ci ho mandato a vedere gli auguri, ci siamo separati e ci siamo persi. Io non l'avevo fatto giù, io sono stato un minuto. Così è. Muglia a ciò andà a rubare l'altro caffè. Oh, fatto bene allora, sei sicuro freddo. Oh, si trova con la coppa della ragazza, però sta che fatto bene. Provatemi con la lampada da Lilo, non l'ho presa. C'era? Sì, ce n'erano 10 scatole, se no di più. Oh, 29,99. Aspetta un attimo, Bacchi, ce n'erano parecchie scatole comunque, 30 euro, ma ho guardato in internet e costavano 80-85 euro, quelle lì, questo è proprio da professionisti. È a LED, e fa luce forte pure, e c'è il coperchio anche nella lente sopra, se non vuoi vedere c'è il coperchio della lente per non espandersi, se vuoi vedere nella lente allora sollevi il coperchio ed è così, è professionale. A mia figlia serve tanto, non è che serve a me, a mia figlia, ma sei piazzata a Drat Buruio, vabbè che già ce l'ho io la lente con la lucetta. sicuramente si è sentato, perché quando stava parlando con me mi ha detto che stava, aveva suonato la figlia, stava venendo e si è sentato. Poi non l'ho più sentito perché sono andato a prendere la mia moglie. Sono stato qua a Bacchì e ti ho chiamato oppure non mi hai risposto. Ma parecchio è cambiato, forse ti sei sentato per cambiare l'apparecchio, Bacchì, perché ti ho chiamato due volte e non mi hai risposto, eri il corrente. No, va benissimo, adesso va bene. La voglia. Avanti, signor To. Ehi, Gianmarie. Noi ci siamo sentiti poco fa. Sono andato a prendere la signora. Mi sono condurrato. Anda, vedi. Si prende, signor Bacchì. Io sto ascoltando su 10 stasera, perché ha giù un traffico e non c'è nessuno, sono due. Oh, ehi, vabbè, andare lo stesso. Se a noi a qualche minuto che è meglio. Siamo sempre qua e siamo tranquilli ugualmente. Che a qualcuno non piace queste persone, è da tutto da chiarire. Bacchì, noi siamo 23 cellulari, vogliamo stare in altro canale, Bacchì. A me 10 non mi è piaciuto mai, non ci sono mai andato su 10. Prima eravamo su 5, ma su 5 c'erano troppa gente, allora andiamo a dire su 23 e siamo ritornati su 23. Collaborare Mario, eravamo sempre qua noi, non ci spostavamo mai, o su 5 o su 10, su 23. Va bene, però ho visto che anche gli altri già vengono, per cui vuol dire che piace anche il 23, anche a loro. Prima c'erano parecchie gente su 10, adesso raramente vanno su 10, raramente. E per cui io certe volte faccio così, tale sento qualche volta, ma la maggior parte anche su 10 è zero completamente, come è zero anche qua. Ma la gente, sai com'è, ormai il baracchino mi sembra che hanno perso gli aiutizio, come tutti. Con il telefonino adesso si fa tutto, non bisogna avere nemmeno l'apparecchio adesso. È meglio qua, vai, è tutto un'altra cosa qua, vai. L'apparecchio è tutto un'altra cosa, il telefonino. Oh, no. Oh, perlomeno. A me non mi va. Infatti non ho messo e non le metterei. Però a chi piace già piace rimane, per cui non è a tutti comunque. Questo qua 27 non ho, il baracchino non vuole mai perso, va benissimo così, è migliore, la radio è molto migliore. Finché dura, l'avemmo dura a noi, poi se si blocca, pazienza. Infatti, 4 o 5 non di più. Ma non vedevo che c'è in 3, in 4, in 2. Ehi, va benissimo. Almeno adesso macchino no, siamo ore e ore aspettando che ti ripassavano il microfono altri tempi, capito? Cata magari non ti suffavi e te ne andavi perché non ti chiamavano, perché eravamo in truppi su un canale, mentre adesso questi pochi ya, si può chiacchierare benissimo, vai. Infatti, poi tutti i canali pure, non un canale solo, no, tutti i canali, mentre adesso, poi adesso non ci sono gli splatteri come prima, non si bestemmiava, non si spegneva l'apparecchio perché ti entrava lo splatter, mentre adesso sei tranquillo, dai, così è certo. Infatti, ma non ti entra nulla, i canali sono nudi, adesso non ti splatterà più nessuno. Siamo pochi ma tranquilli, dai, adesso la possiamo chiacchierare, se uno ne ha voglia già può stare anche 10 o un quarto d'ora chiacchierando, per cui non ho visto un problema, mentre prima si dimenticavano che c'era tanta gente in parcheggio e certe volte si dimenticavano proprio di chiamarli, ecco. Fate del così, pazienza, finché va, non vai mandare, poi quando ci fermo tutto ci fermiamo. Avanti signor Bacchi. Grazie, il baracchino dice che era con raffreddore e l'ha messo anche la coperta dentro l'armadio, ha coperto bene, capito? Perché dice che l'inverno prende il raffreddore e ha paura, capito? Li ha coperti e allora ha lasciato il PMR. Stiamo accendo ogni tanto, vai, ogni tanto lo accendo anche questo, per cui è più maneggevole, capito? Più piccolino e per cui magari sa più bene sopra il tavolo, anche quell'altro più grosso è da fastidio a qualcuno, capito? Così è certo. E allora, ci l'ha detto il burro, poi non ha messo la sopra e ti rimane sopra, e te lo sei fatto. No, mia moglie ha detto che non può vedere nulla. Andate. Spero un po', vabbè. Allora, va così e così. Se va bene a lui, va bene anche a noi. Pazienza, ti peggio un maedo. Non sa cosa si perde. Desi Franchi ci bello. Cos'è, ma chi? Pensavo di lui, diceva, pensavo di sapere che c'è una cosa. Tre stomani è certificato. Sì, esatto. Infatti, io fa così, diceva, fa. Vabbè. Peggio Baedo, non se ne può pure, no, ci sta, ma è tanto il mondo, no? Non è entrato ben nulla stasera. Oh, si sta matto l'aria, funziona adesso. Perché voleva registrato, voleva, ecco, già è. Dovevi toccare quelle pioline e toccato. Perché voleva stabilizzato, voleva, ecco cos'è, il trimmer era per dove vigilare tutto quanto e lo sistemavi giusto e funziona, sì. La bassa tensione, per quello si spegne, era bassa Sì, basta perché tu gli mettessi il coso, il tester e lo vedevi subito com'era. Io infatti l'altra volta gli ho messo il tester e l'ho messo a 12 e 5. Sì, no, è già così, sì. Lo devi portare, anzi, a 13 e 5 lo devi portare, no a 12, a 13 e 5 lo devi portare. E ti dovrebbe dare 13 e 5, 13 e 6 ti dovrebbe dare. Quindi, come io l'ho misurato con il test, mi dà 13 e 5. E adesso gli devi mettere i cosi, gli devi mettere dietro dei fili e un coso, un interruttore gli devi mettere. Ma c'è anche coso, mi la ventola devi lasciare fuori. Ma è a ventola. Ha già compreso, ho capito, sì sì, cioè così sì, andava bene. Andava bene, mi prendo la Giomarì. Che alimentatore è? Quello sui lunghi e stretti? Non è come quello che ho io allora, Otto, quello che c'hanno la ventola, che l'abbiamo messo là, l'interruttore per la ventola, quello lì sono, sono diverso. No, sono quasi precisi, però ma mi sta dicendo che ventola non è, vuol dire che non scalda più di tanto quello. Ah, bravo. Graziano mi sembra che l'aveva preso dai cinesi qua. Però dice che no, era troppo piccolo, non ce l'ha faceva. No, quello che ho io, ne ho due che ce l'ho in campagna. Funzionano bene, però sono da 50 ampere quello lì, quello che ho io. Ci ho messo, abbiamo fatto il lavoro, abbiamo messo gli attacchi dietro. E la ventola abbiamo messo un interruttore. Quando vuoi lo accendi, quando vuoi lo spegni. E così ho fatto io lo stesso, questo che ho io. Ho messo l'interruttore e l'interruttore alla ventola. E più gli ho messi due cosi dietro. Due spinotti o due banane. Due banane abbiamo messo, le attacche delle banane abbiamo messo. Funziona bene, io ho portato in campagna perché qua i marciatori e io ci così, per cui no, non mi servivano qua. Però funzionano bene quelli, cazzo, 50 ampere a Puglia, anche i grandi ci fa funzionare bene. Questo è un po' di girare. L'altra volta siamo andati a vedere un po' com'erano e non ne abbiamo trovato quella diventata dai cinesi, dal portatore. Anche lì diceva il marcato all'incrocio siamo andati e non ce n'erano. Li hanno portati dopo, però Graziano l'ha preso dai cinesi, mi sembra, e l'ha trovato. E questo mi sembra che non ce n'erano in quelli lì. Dovrebbero funzionare bene ugualmente, cazzo, infatti magari bisogna anche vedere un po' l'apperaggio. Quello che ho io sono tutti da 50 ampere, tutti e due, ne avevo tre, uno a chi l'ho dato, l'ho regalato uno, e funzionano tutti a 50 ampere, ma funzionavano bene, erano tutte e tre con la ventola. Infatti, ti ricordi di ciò che stavamo parlando di questi alimentatori? Io l'avevo preso tre. Io mio, questa che avevo preso, ce l'ho qua e funziona benissimo, Rudeni, vero Rudeni? Sì, a Puglia. Quando voglio attacco la ventola, che andi casi, e andi no, ora sono sudato. Chi è? Ciao, ma chi è? Non va a vedere di lui. Io, ora sono stato tutto in giro. Andava e anda. Oioia, riprenda Gio Marino. Ok, riprendo, chiudo ciò. Perché alle 8 meno 5, per cui la profitta, sopra la fissa, per cui bollo tutto, me ne vado a papà. Che sta bronzando, lo so, ma... Per cui vi saluto, vai. Ciao, Bacchi. Buon proseguimento, saluto di casa. Grazie alla chiacchierata. Il attore. Sto riprendendo qui, dai, vi ascolto e poi chiudo. Ok, buona cena a tutti e due. Ok, ciao Gio Maria, stammi bene. Ti prego, Bacchi. Ciao Gio Maria, buona cena, buona cena, buon tutto, salve la signora. A domani si concilia, grazie della temperatura. Ah, ti so. E vabbè, la chiacchierata stasera ce l'abbiamo fatta, una mezz'oretta di chiacchierata e andavi. Ehi, vabbè. E Giulia che andavi anda. E prenditela. Già li vendono quelle scatole lì in alluminio. Mia, giubito un tempo va 7-12 gradi, andavi e a posto e va a pusho tutto il giorno. Adesso basta, andiamo andiamo, andiamo, dai, dai, sette. Vabbè, dai. A come mi sono ciamelli, andate, da, perché ci sentiamo domani, se Dio vuole. Sì, anche io qua. Ciao, ciao. Ok, ciao, Battista.